Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. For the little girl, the women. How much for the women? What? Your women. I want to buy your women. The little girl, your daughters. Sell them to me. Sell me your children. Making moves. movements to introduce thoughts. I sat deafened by trust on that sofa across, quietly calculating the logistics of lust, of when unspoken things could then happen between us. And once all those were done and we'd got through to love, we would shoot from the hip, reacting off of the cuff, splitting up at the fork when the going got rough, with a plan for a point to rejoin on the road. Further up our windows thin, where the ice carved its flowers, I would hold her and let the wind beat back those hours. And then standing on subway trains, clutching her dress, dependent on her balance, since the walls were useless. And while it's alright to hold tight, please don't try to hold on, cause it's a home run we hit love as it's going and gone. Then the world turned so fast, it was astoundingly still. And it must have been that moment made of midnight on the hill, right when the cataract's alley cat spat back at the moon. Thrown out into the nighttime, 9 lifetimes too soon. We had come such a ways and knew just what he meant. There's a picture of the three of us at the gate to the garden. Are like longing, an ever-changing thing, and keys are just clouds made of metal and spark. We knew exactly who we were and yet couldn't quite say who we still are. I saw it all happening in one grand epic sweep. From that first sight, we wouldn't get to sleep for a week. Generations would follow the course that we'd charted from that sofa across. I couldn't wait to get started. Nat Baldwin con 1, 2, 3, These United States con First Sight. Queste sono le due canzoni che hanno aperto la parte numero 2 del volume numero 4 di Eclettica, con Giulio Caperdoni come tutti i giorni fra le 19 e le 20. A meno che ovviamente non stiate ascoltando in podcasting, allora l'orario non è poi così più importante. Dopo che la prima si era chiusa con Adem a rifare due canzoni di FX Twin e a renderle una sola, To Cure, a Weakling Child Boy Girl Song. E sto ricevendo mail a giulio@radiorockfm.com, ancora giulio@radiorockfm.com, a riguardo di questa cover di Adem. Ho detto ancora @radiorockfm.com perché vi voglio invitare ad utilizzare sempre di più quello che sarà l'indirizzo dal 31 di maggio in poi, quindi è meglio imparare ad usarlo prima. giulio@rockfamily.it, la famiglia del rock, quella a cui apparteniamo noi e voi. Wolf Parade, questa è la canzone che sta per arrivare, questo, per meglio dire, l'album che sta per arrivare a metà di giugno per Sub Pop, il nuovo album del quartetto canadese. Si sono presi, dopo che a fine 2005 erano usciti con Apologies to the Queen Mary, un po' di tempo per partecipare ad altri progetti, per esempio Sunset Rubdown, è quello di cui più abbiamo parlato qua in Eclettica. Ed ora ritornano tutti e quattro assieme per la nuova prova, Kissing the Beehive, Wolf Parade, che ci ascoltiamo con Call It a Ritual. Destruction down, call it whatever you will. Immediatamente presi il quaderno bianco, che da tempo riponevo nel cassetto del comodino, ogni sera uguale alla precedente. Iniziai a scrivere disperatamente. All'inizio non lo trovai affatto utile, semplicemente il male minore. Lentamente piccole strofe di versi timidi prendevano forma sulla pagina bianca, una dopo l'altra. Poi più veloce, quasi fossero già tutte contenute nella penna e la mia mano dovesse solo lasciare scorrere. La mutila bellezza restava taciturna, fisso, lo sguardo sulla mia testa china. Aspettava, cercava di capire se fosse utile avere fiducia in me. E ora mi sorrideva. Forse Charlie le aveva detto due parole prima di lasciarmi solo tra le coperte, accarezzate da quel suo profumo dolce di cappuccino caldo e vaniglia. O forse era stata lei a dire due parole a Charlie, sussurrate piano all'orecchio nella notte, nell'eco di un sogno. Questo io non potevo saperlo. Questo era ancora Dove sei, Charlie? Una storia di poesia e rock and roll di Holly Orange. We'll be right back. We're putting the band back together. Forget it. No way. We're on a mission from God. Io non ti ho mai scritto per tutta una serie di ragioni. Sono schiva, ho difficoltà a condividere e ho un caratteraccio, dicono. Sono probabilmente molto più vecchia della maggior parte del pubblico di questa radio proprio speciale, ma ascolto musica rock dal 1974-75 circa. Ci pensi quanto è? All'epoca eravamo un piccolo ma affiatatissimo gruppetto di adolescenti sui Generis. Leggevamo roba strana e sentivamo musica. Ora invece sono praticamente sola, sai come succede. Bisogna lavorare, c'è un figlio da badare, da sola purtroppo, e ha già 16 anni, accidenti. A volte non ce la faccio a stare dietro a tutte le cose, spesso restano indietro quelle che si amano di più. Per fortuna c'eravate voi, per fortuna. Mi astengo dai commenti, ci siamo sbizzarriti tutti in questi giorni, cosa si può aggiungere? Meglio tacere, se non si ha niente di utile, nel senso di operativo, da dire. Mi rammarico di avere sempre avuto un pessimo rapporto con i computer. Arrivo a malapena alla semplice sopravvivenza, perché così il mio senso di perdita sarà ancora più profondo. Ma basta divagare. Mi piace Eclettica, anche se non riesco a sentirla più di 2 o 3 volte alla settimana quando ho del tempo per me. Non parlarmi di archivi, podcast o quel che sia, perché non capirei come si fa neanche se tu venissi a casa mia a spiegarmelo. Ci ha già provato mio figlio. Ti ringrazio per avermi fatto conoscere della musica bella che non sapevo e per aver letto pagine di libri ad alta voce. È una cosa che adoro e tu hai una voce davvero unica. Personalmente avrei letto altri libri, è vero, ma grazie alle tue scelte ho conosciuto cose nuove. Leggo già un sacco, ma mi hai fatto venire voglia di leggere di più. Non credo di saper fare a qualcuno un complimento migliore. Se proprio non ci sarà altra possibilità, prometto che farò del mio meglio per seguirti lì dove sarai, sul web, sul podcast, su altri impronunciabili luoghi. Non posso assicurare che ci riuscirò, ma non per questo ti dico addio, caro Giulio, ma soltanto ciao. Fran da Pisa. E quest'oggi è toccata a Fran a rappresentare le centinaia di ascoltatori che hanno scritto in questo ultimissimo periodo. Tenete come riferimento che tu, Fran, anche se con la tecnologia dichiari di non essere molto ferrata, tenete tutti presente l'indirizzo www.rockfamily.it, perché tutto quello che succederà o succederà lì o da lì verrà annunciato. E per quanto riguarda l'ultima manciata di brani di questa settimana, dopo The Black Angels con You on the Run e Mademoiselle Caro e Fran Garcia con Dead Souls, che si è appena chiusa, vi lascio con un pezzo che non è l'ultimo, ma è il penultimo. Un pezzo che arriva da The Brian Jonestown Massacre, sapete che è una band che è fra le mie preferite. Sono in uscita con il nuovo disco, da cui estraggo Yeah Yeah. La immaginai allora, quella ragazza esile avvolta nel cappotto a quadri verde e nero, nel freddo inverno di una strada di Manhattan. Il pulviscolo di neve volteggia piano intorno, si posa sui suoi capelli neri. Sosta davanti ad una vetrina di una piccola libreria all'angolo della 34esima, entra. Uno sguardo agli scaffali intorno per respirare il tepore del piccolo stanzino di carta. Charlie si avvicina curiosa a uno dei tanti libri. Sulla copertina l'immagine di un basso sfasciato nel lontano 1979, librato in aria come la spada di un guerriero delle crociate. Al pensiero di queste immagini, continuai a scrivere disperatamente. Non potevo allontanare la speranza che lei vedesse il mio nome sulla copertina e il suo in seconda pagina. Che cosa avrei scritto poi? A Charlie? No, troppo banale. Grazie, a Charlie. Sembrava dissacrante. La Venere, con il suo sorriso così volutamente enigmatico, non poteva consigliarmi altro che essere sincero. Allora seppi come occupare quell'intera pagina bianca e scrissi: «Dove sei, Charlie?» Questo era ancora «Dove sei, Charlie?» Una storia di poesia e rock and roll di Holly Orange. Eclettica, ultima stagione, settimana numero 25, volume numero 4, indice, Crystal Stills, Radiohead, remixati dagli Holy Fuck, Tears Run Rings, Adem a rifare Aphex Twin, Nat Bodwin, This United States, Wolf Parade, The Black Angels, Mademoiselle Caro e Fran Garcia, The Brian Jonestown Massacre, The Mojo Medics. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.